filosofici, politici ci insegnano a vivere questi anni d'oro della generazione dei divieti di sosta. Si sposta la posta, ci costa una pensione che non crede.